Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Fu da quell'epoca, dunque, che cominciai a essere ricevuto, si può dire quotidianamente, nell'appartamentino particolare di Alberto. Lui lo chiamava studio, e studio infatti era, la stanza da letto e il bagno essendo contigui. In quella famosa camera, dietro la doppia porta della quale, passando lungo il corridoio accanto, Micol sentiva risuonare non più che le voci confuse del fratello e dell'amico malnate, e dove, a parte le donne di servizio quando arrivavano col carrello del tè, nel corso dell'inverno non mi accadde mai di incontrare nessun altro membro della famiglia. Oh, l'inverno 38-39. Ricordo quei lunghi mesi immobili, come sospesi al di sopra del tempo e della disperazione. A febbraio nevicò, Micol tardava a rientrare da Venezia, e ancora adesso, a più di 20 anni di distanza, le quattro pareti dello studio di Alberto Finzi Contini tornano ad essere per me il vizio, la droga tanto necessaria quanto inconsapevole di ogni giorno d'allora. Certo, non ero affatto disperato quella prima sera di dicembre che riattraversai in bicicletta il barchetto del Duca. Micol era partita, eppure io pedalavo lungo il viale d'ingresso, nell'oscurità e nella nebbia, come se di lì a poco mi aspettassi di rivedere lei e soltanto lei. Ero emozionato, allegro, quasi felice. Guardavo dinanzi a me, cercando col faro della bicicletta i luoghi di un passato che mi sembrava remoto, sì, ma ancora recuperabile, non ancora perduto. Ed ecco il boschetto delle canne d'India. Ecco, più in là, sulla destra, l'incerta sagoma della casa colonica dei Perotti, da una finestra della quale, al primo piano, trapelava un po' di lume giallastro. Ecco, ancora oltre, farmisi incontro la fantomatica incastellatura del ponte sul Panfilio. Ed ecco, infine, preannunciata per breve tratto dallo scricchiolio delle gomme sulla ghiaia del piazzale, la mole gigantesca della Magna Domus, impervia come una roccia isolata, completamente buia, eccetto che per la luce bianca, vivissima, che usciva a fiotti da una piccola porta terrena, aperta evidentemente per accogliermi. Smontai dalla bicicletta, restando a guardare per un attimo la soglia deserta. Intravedevo, tagliata obliquamente dalla nera quinta del battente di sinistra rimasto chiuso, una ripida scaletta ricoperta da una guida rossa, d'un rosso acceso, scarlatto, sanguigno. Ad ogni gradino una sbarra d'ottone, lustra e scintillante, come se fosse d'oro. Accostai la bicicletta al muro, chinandomi per chiuderla col lucchetto, e stavo ancora là, nell'ombra, chino al lato della porta attraverso la quale, oltre che luce, emanava un buon calore di termosifone. Nel buio non riuscivo a far funzionare il lucchetto, sicché già pensavo, per veder meglio, di accendere un fiammifero, quando la nota voce del professor Ermanno risuonò d'un tratto vicina a me. «Che cosa fai? La chiudi a chiave?» diceva il professore, fermo sulla soglia. «Ma bravo, però! Non si sa mai, la prudenza non è mai troppa». Senza capire, al solito, se con la sua gentilezza un po' querula si burlasse copertamente di me, mi rialzai subito. «Buonasera», dissi, togliendomi il cappello e porgendogli la mano. «Buonasera, caro», rispose. «Ma tieni il cappello, tienilo». Sentii la sua mano piccola e grassa infilarsi quasi inerte nella mia e immediatamente ritrarsi. Era senza cappotto, un vecchio berretto sportivo calato sugli occhiali e una sciarpa di lana avvolta intorno al collo. Sbirciò di fianco, diffidente, in direzione della bicicletta. «L'hai chiusa, non è vero?» Risposi di no. E allora lui, contrariato, a insistere che tornassi indietro, facessi il piacere di chiuderla a chiave, perché, ripeté, non si sa mai. Un furto era improbabile, continuava a dire dalla soglia, mentre io, di nuovo, stavo cercando di introdurre fra i raggi della ruota posteriore il gancio del lucchetto. Fatto sì è che del muro di cinta del giardino non ci si poteva fidare oltre un certo segno. Lungo il perimetro di esso specie dal lato della mura degli angeli, esistevano perlomeno una decina di punti, la cui scalata non avrebbe messo in nessuna difficoltà un ragazzo appena appena svelto. Filarsela, poi, anche se gravato dal peso di una bicicletta a tracolla, sarebbe stata per il medesimo ragazzo un'operazione quasi altrettanto facile. Riuscii finalmente a far scattare il lucchetto. Alzai gli occhi, ma la soglia era tornata deserta. Il professore mi attendeva nell'ingressino, ai piedi della scala. Entrai, avendo cura di tirarmi dietro la porta, e solo allora mi accorsi che lui mi guardava perplesso, pentito. «Mi domando», disse, «se non avresti fatto meglio a portare la bicicletta addirittura dentro. Anzi, da retta a me. La prossima volta che vieni, entra pure con la bicicletta. Se la sistemi lì, nel sottoscala, non darai il minimo fastidio a nessuno». Si voltò e cominciò a salire, precedendomi su per la scala. Andava su lentamente, più che mai ingobbito, e tenendosi con una mano alla ringhiera, sempre col suo berretto in testa e con la sciarpa al collo. Intanto parlava, o meglio, borbottava, come se, più che a me, si rivolgesse soprattutto a se stesso. Era stato Alberto a dirgli che oggi sarei venuto a trovarlo, di modo che, siccome Perotti dalla mattina si era messo a letto con un po' di febbre, non si trattava che di una bronchitina, ma andava curata però, anche per evitare possibili contagi, una volta tanto aveva dovuto assumersi lui il compito di stare alle velette. Su Alberto, sempre smemorato, distratto, nelle nuvole, non c'era proprio da contare, si sa. Ci fosse stata Micol, comunque, lui non avrebbe avuto nessun motivo di inquietudine, giacché Micol, chissà come faceva, trovava sempre il tempo di occuparsi di tutto, badando non solamente ai suoi studi, ma anche all'andamento generale della casa e perfino alla cucina, sicuro, per la quale anzi nutriva, gran bella cosa questa, in una donna, una passione di poco inferiore a quella che suscitava in lei la letteratura. Era lei che faceva i conti di fine settimana con la Gina e con la Vittorina, lei che provvedeva personalmente a sciacquare il pollame quando era necessario, e ciò ad onta che amasse tanto le bestie, poverina. Se non che Micol in casa quel giorno non c'era. Me l'aveva detto Alberto che Micol non c'era, essendo purtroppo dovuta partire ieri pomeriggio per Venezia. Ed ecco spiegata la ragione per la quale lui, in assenza del loro angelo tutelare e di Perotti, oltretutto, era costretto a fare temporaneamente anche da portinaio. Parlò anche di altre cose che non ricordo. Tuttavia, alla fine, tornò ancora su Micol, e non per compiacersi di lei questa volta, bensì per lamentarsi di certa sua recente irrequietezza. Disse proprio così e sospirò. Una irrequietezza che, secondo lui, dipendeva indubbiamente da tanti fattori, si capisce, ma soprattutto... Qui tacque, di botto, senza aggiungere altro. E durante tutto questo tempo non soltanto eravamo saliti in cima alla scala, ma avevamo infilato e percorso due corridoi. Eravamo entrati e usciti da varie stanze, il professor Ermanno, sempre facendomi da battistrada e non lasciandosi sopravanzare altro che per spegnere via via le luci. Assorbito come ero da quanto sentivo di Micol, il particolare che fosse lei, con le sue mani, a scannare i polli in cucina, mi aveva stranamente affascinato, guardavo, ma senza quasi vedere. Passavamo del resto attraverso ambienti non troppo diversi da quelli di altre case della buona società ferrarese, ebraica e non ebraica, invasi anche questi dalla solita suppellettile, armadi monumentali, pesanti cassapanche secentesche dai piedi a foggia leonina, tavoli tipo refettorio, savonarole di cuoio con borchie di bronzo, poltrone frau, complicati lampadari di vetro o ferro battuto pendenti dal centro di soffitti a cassettoni, nonché, stesi dappertutto sui parquet, spessi tappeti color tabacco, carota e sangue di bue. Qui forse c'era una quantità maggiore di quadri dell'Ottocento, paesaggi e ritratti, e di libri, in gran parte rilegati, a file dietro i vetri di grandi librerie di mogano scuro. Dai grossi radiatori del termosifone si sprigionava inoltre un calore che a casa nostra, per esempio, mio padre avrebbe giudicato pazzesco, mi sembrava di sentirlo. Un calore da grande albergo, più che da casa privata, e tale infatti che, quasi subito, cominciando a sudare, avevo avvertito il bisogno di togliermi di dosso il cappotto. Lui davanti e io dietro attraversammo almeno una dozzina di stanze di ampiezza disuguale, ora vaste come vere e proprie sale, ora piccole, addirittura minime, e collegate l'una all'altra, a volte, da corridoi non sempre diritti né al medesimo livello. Finalmente, giunto a metà di uno di questi corridoi, il professor Ermanno si fermò di fronte a una porta. «Eccoci arrivati», disse. Accennava col pollice all'uscio e ammiccava. Si scusò di non poter entrare anche lui, perché, spiegò, aveva da rivedere certi conti della campagna. Promise che avrebbe mandato subito una delle ragazze con qualcosa di caldo. Dopodiché, strettami la mano e ottenuta assicurazione che sarei tornato ancora, aveva sempre in serbo per me le copie dei suoi lavoretti storici veneziani, non me ne dimenticassi, e poi gli faceva molto piacere a lui intrattenersi di tanto in tanto con la gioventù intelligente. Mi volse le spalle, proseguendo lungo il corridoio e scomparendo rapidamente in fondo ad esso. «Ah, sei qua!» mi salutò Alberto, vedendomi entrare. Stava sprofondato in una poltrona. Se ne sollevò, puntando entrambe le mani sui braccioli. Si mise in piedi, posò il libro che stava leggendo, aperto e col dorso in alto, sopra un basso tavolinetto lì accanto, infine mi venne incontro. Indossava un paio di pantaloni grigi, di vigogna, uno dei suoi bei pullover color foglia secca, scarpe inglesi marrone, erano Dawson, autentiche, mi disse poi, le trovava a Milano, in un negozietto vicino a San Babila, una camicia di flanella aperta sul collo, senza cravatta, e aveva tra i denti la pipa. Mi strinse la mano senza eccessiva cordialità. Intanto fissava un punto oltre la mia spalla. Che cosa attirava la sua attenzione? Non capivo. «Scusa», mormorò. Mi scartò piegando la lunga schiena di lato e nell'attimo che mi superava mi resi conto di aver lasciato la doppia porta mezza aperta. Alberto era già là, tuttavia, a provvedere personalmente. Afferrò la maniglia della porta esterna, ma prima di tirarla a sé si sporse con la testa a scrutare fuori, nel corridoio. «E Malnate?» chiesi. «Non è ancora arrivato?» «No, non ancora», rispose, tornando verso di me. Si fece consegnare cappello, sciarpa e cappotto e sparì nella cameretta attigua. Di questa, così, attraverso la porta di comunicazione, mi fu dato conoscere già da allora qualcosa. Parte del letto, con sopra una coperta di lana a quadri rossi e blu, di tipo sportivo, ai piedi del letto un puff di pelle e, appeso alla parete di fianco al piccolo uscio a muro che dava nel bagno, anche esso semiaperto, un nudino maschile di De Pisis, montato in un semplice listello chiaro. «Siediti», diceva frattanto Alberto, «vengo subito». Difatti, riapparve subito. E adesso, seduto davanti a me, nella poltrona da cui lo avevo veduto tirarsi su poco prima con una lievissima ostentazione di fatica, forse di noia, mi considerava con la strana espressione di simpatia distaccata, oggettiva, che in lui, lo sapevo, era il segno del massimo interesse per gli altri di cui fosse capace. Mi sorrideva, scoprendo i grandi incisivi della famiglia materna, troppo grandi e forti, per quel suo volto lungo e pallido e per le stesse gengive che li sormontavano, non meno esangui del volto. «Vuoi sentire un po' di musica?» propose, accennando a un radiogrammofono posto in un angolo dello studio, al lato dell'ingresso. «È un Philips, veramente ottimo». Fece l'atto di alzarsi nuovamente dalla poltrona, ma lo trattenni. «No, aspetta», dissi, «magari dopo». Mi guardavo attorno, osservando la stanza. «Che dischi hai?» «Oh, un po' di tutto. Monteverdi, Scarlatti, Bach, Mozart, Beethoven. Dispongo anche di parecchio jazz, però non spaventarti. Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller, Benny Goodman, Charlie Coons. Continuò ad elencare nomi e titoli, cortese ed equanime, come d'abitudine, ma con indifferenza, né più né meno che se mi desse da scegliere in una lista di vivande che egli, per conto suo, si sarebbe guardato bene dall'assaggiare. Si animò soltanto, moderatamente, per illustrarmi le virtù del suo Philips. Era, mi disse, un apparecchio abbastanza eccezionale, e ciò per merito di certe modifiche da lui studiate e messe in opera con l'aiuto di un bravo tecnico milanese. Tali modifiche interessavano soprattutto la qualità del suono, che veniva emesso non già da un singolo altoparlante, ma da ben quattro distinte sorgenti sonore. C'era infatti l'altoparlante riservato ai suoni bassi, quello dei medi, quello degli alti e quello degli altissimi, di modo che, attraverso l'altoparlante destinato ai suoni altissimi, per esempio, anche i fischi e ridacchiò venivano alla perfezione. E non pensassi mica che fossero stati stipati tutti e quattro vicini gli altoparlanti, oh no, dentro il mobiletto del radiogrammofono non se ne trovavano che due, l'altoparlante dei suoni medi e quello degli alti. Quello degli altissimi lui aveva avuto l'idea di nasconderlo là in fondo, presso la finestra, mentre il quarto, dei bassi, l'aveva piazzato proprio sotto il divano su cui sedevo io. E tutto questo allo scopo che fosse raggiunto anche un certo effetto stereofonico. Entrò in quel momento la Dirce, trascinandosi dietro il carrello del tè. Vidi apparire sul volto di Alberto un'espressione di lieve contrarietà. Anche la ragazza dovette accorgersene. «È stato il professore», si giustificò, «a comandare che lo portassi subito». «Fa niente. Vuol dire che intanto ne prenderemo una tazza noi». Bionda e riccia, con le guance arrossate delle venete delle Prealpi, la figlia di Perotti preparò in silenzio e a ciglia abbassate le tazze, le posò sul tavolino, quindi si ritirò. Nell'aria della stanza rimase un buon odore di sapone e di borotalco. Anche il tè, così mi parve, ne sapeva leggermente. Sorbivo dalla tazza e continuavo a guardarmi intorno. Ammiravo l'arredamento della stanza, così razionale, funzionale, moderno, così radicalmente diverso da quello del resto della casa, e tuttavia non capivo perché mai fossi invaso da un senso via via crescente di disagio, di oppressione. «Ti piace come ho messo su lo studio?» chiese Alberto. Sembrava ansioso ad un tratto del mio consenso, che io non gli lesinai, naturalmente, diffondendomi in lodi sulla semplicità del mobilio, levandomi su dal divano per andare a esaminare da vicino un grande tavolo da disegnatore posto di traverso vicino alla finestra e sormontato da una perfetta lampada snodabile di metallo, e infine esprimendo il mio particolare apprezzamento nei confronti delle luci indirette che, dissi, trovavo molto riposanti e insieme adattissime per lavorare. Mi lasciava dire e pareva contento. «Li hai disegnati tu, i mobili?» «Beh, no, li ho copiati un po' da Domus e da Casabella e un po' da Studio, sai, quella rivista inglese. Poi li ho fatti eseguire qui a Ferrara, da un falegnamino di via Coperta». Gli faceva molto piacere, aggiunse, sentirmi approvare i suoi mobili. Per stare o per lavorare, infatti, che bisogno c'era di circondarsi di brutte cose o semplicemente di anticaglie? Quanto a Giampi Malnate, si imporporò leggermente nominandolo, quanto a Giampi Malnate, aveva un bell'insinuare lui che lo studio così arredato assomigliasse più a una garçonnière che a uno studio, sostenendo inoltre da buon comunista che le cose in sé possono offrire al massimo dei palliativi, dei surrogati, lui essendo per principio contrario a surrogati e palliativi di qualsiasi genere, e contrario perfino alla tecnica, anche ogni qualvolta la tecnica, all'aria di affidare a un cassetto a chiusura perfetta, tanto per fare un esempio, la risoluzione di tutti i problemi dell'individuo, compresi quelli morali e politici. Lui, comunque, e accennava con la mano al proprio petto, era di parere diverso. Pur rispettando le opinioni del Giampi, era comunista, sì, non lo sapevo, Trovava che la vita era già abbastanza confusa e noiosa perché lo fossero anche mobili e suppellettili, questi nostri muti e fedeli compagni di camera. Fu la prima e l'ultima volta che lo vidi accalorarsi, prender partito per certe idee invece che per certe altre. Bevemmo una seconda tazza di tè, ma la conversazione adesso languiva, tanto che fu necessario ricorrere alla musica. Ascoltammo un paio di dischi. Tornò la Dirce, portando un vassoio di pasticcini, finché verso le 7 il telefono posto sullo scrittoio di contro al tavolo da disegnatore cominciò a squillare. «Vuoi vedere che è il Giampi?» borbottò Alberto accorrendo. Prima di sollevare il microfono, esitò un attimo, come il giocatore che, avute le carte, ritardi il momento di guardare in faccia la fortuna. Ma era proprio malnate, come capii subito. «E allora? Che cosa fai? Non vieni?» diceva Alberto deluso, con un lagno quasi infantile nella voce. L'altro parlò abbastanza a lungo. Dal divano, pur senza afferrare quello che Malnate diceva, sentivo il microfono vibrare sotto l'urto della sua grossa, calma voce lombarda. Infine distinsi un ciao e la comunicazione fu interrotta. «Non viene», disse Alberto. Tornò lentamente verso la poltrona, vi si lasciò calare, si stirò, sbadigliò. «Pare che sia trattenuto in fabbrica», riprese, «e che ne abbia ancora per 2 o 3 ore. Si scusa e mi ha detto di salutare anche te». Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.